Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, 21 e 5 minuti in questo istante. Oggi è martedì 26 aprile del 2011. Buona serata a tutti, benvenuti in frequenza. Questa è Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale di Blu Radio Sera. Una buona serata vi arriva da Flavio Bilato e un'altra buona serata da parte di Maurizio Calzavara. Buona serata a tutti. Buonasera Maurizio, anche buonasera, in questa Flavio. Serata non siamo soli, siamo in ottima compagnia e diamo il benvenuto alla piccola orchestra Cara Show. Ciao. Eccoli qua, quindi salutiamo Paolo, Fabio, Diego, Michele e salutiamo anche chi già in principio non è potuto venire, il violinista. La violinista. Sì. Ha un po' di barba, ma è una donna. Ah, ho capito. Vabbè, donna barbuta sempre piaciuta. Sempre piaciuta, sì. E già in principio di trasmissione quella. Sappiamo con che qualità di gente stiamo parlando, Maurizio, questa sera. La piccola orchestra Cara Show che ci è venuta a trovare direttamente da Bergamo, dove la sappiamo molto conosciuta in quella zona. E dove peraltro c'è ancora la neve. E dove peraltro c'è ancora la neve, sì. Non c'è più. No, magari poteva esserci. Guarda. Le stagioni adesso sono così cambiate che anche in primavera, anzi anche in estate, da qualche parte nel mondo nevica. Benissimo, allora la piccola orchestra Cara Show è venuta per presentarci un CD, ma che dico un CD? Una pizza. No, esatto. In questo caso sì, perché faccio allusione anche un po' alla copertina davvero particolare che ci hanno mandato così per deliziarci della loro musica, un CD che si intitola Made in Italy, proprio come la pizza. Esatto, allora noi all'interno del disco abbiamo promosso delle canzoni che parlano del bel paese, no? Dei vizi, delle contraddizioni dell'italiano. E quindi quale titolo migliore se non Made in Italy? Poi per promuovere il disco volevamo dare anche una simbologia che riconoscesse l'italiano in tutto il mondo. Come abbiamo detto già in qualche altra radio, le due cose che oggi come oggi riconoscono l'italiano nel mondo sono o la pizza o Berlusconi. Ecco, sì. Magari quindi noi abbiamo scelto la pizza per ovvi motivi di preferenze personali. Ecco. Certo, poi capiremo anche in una canzone che parla di politica, non volendo parlare di politica. Quindi, bene. E comunque il mandolino ve lo siete portato, perché sì. È un altro... Il mandolino c'è. Un altro modo di presentare l'italiano medio, no? Esatto, quindi sì. Pizza, spaghetti e mandolino. Mandolino. A volte dicono anche mafia, altre parole, ma insomma ci siamo, quindi siamo qui a rappresentare l'Italia nelle sue canzoni, nelle contraddizioni e in altre cose belle, carine. Ascolteremo durante la serata fino alle 22:30 appunto la piccola orchestra Cara Show. Bene, allora, perché vi chiamate così innanzitutto? Dovevamo già dirlo in principio di trasmissione, però la copertina ha vinto su tutto. Ok, allora piccola orchestra Cara Show. Cara Show deriva da un film di Stanley Kubrick che è Arancia Meccanica, in cui il protagonista Alex, per esprimere gioia, dice Cara Show, che poi è una parola in russo che vuol dire molto bene. Piccola orchestra, noi lo spacciamo come un nome che ci permette di infilarci in quelle feste di paese in cui di solito i gruppi di liscio spopolano, no? Sì. E i gruppi di liscio di solito si beccano anche delle grandi palanche. Certo, certo. E quindi noi abbiamo deciso di mettere davanti il piccola orchestra, così magari qualcuno ci chiama, becchiamo anche i nostri soldi e poi chi si è visto, si è visto. Certo. Un po' alla Blues Brothers, sì. Del film... Certo, esatto. E si fa così, poi insomma in principio di attività... Esatto. Che dici Michele? Sono delle tattiche commerciali. Delle tattiche commerciali, diciamo sì. Abbiamo salutato anche Michele, percussionista della piccola orchestra Cara Show. Ma allora, già in principio di trasmissione, Maurizio. Sì, 100 concerti dal 2007 non è mica poca cosa. No. Festeggiati ieri sera. Festeggiati. E quindi questo è il 101. È il 101esimo questo. Sì. Qua. Sì. E quindi che carica. Sì. Il 101. Siamo maculati tutti. Sì. Bene. Ma l'idea di creare nel 2007 questa piccola orchestra, che è un'orchestra corposa, sono 7 elementi, non è proprio piccola, com'è nata, com'è sviluppata, oltre di suonare nelle sagre e altre cose? Ma all'inizio penso che tutti si mettano a suonare uno strumento per fare colpo sulle ragazze, no? È vero. Sì. E quindi anche noi penso che abbiamo imbracciato gli strumenti per quello. Poi dipende dalla lunghezza dello strumento. Esatto, quindi il mandolinista è uno sfigato. Però non diciamo così. Diciamo fa niente. Il bassista va un po' meglio. Il bassista va meglio, sì. E dopo invece è diventata una cosa seria. Quindi col passare del tempo, oltre alle ragazze... È diventata anche un hobby più che importante per noi. Niente, dall'inizio siamo rimasti in tre, cioè quelli che il nocciolo duro dell'orchestra, siamo in tre: io, Fabio alla chitarra e il famoso bassista dal manico lunghissimo che oggi non è presente, che è Roberto Nicoli esattamente, sì. E poi niente, in tre anni si sono susseguiti diversi altri strumenti, diversi altri personaggi e attualmente siamo in sette, quindi oltre a noi ci abbiamo il mandolino che è qui presente con noi, il percussionista, anche lui presente, la violinista citata prima e il bassista. Ho dimenticato qualcuno? La tromba, sì, perché poi anche nei pezzi sentiamo che c'è una certa presenza di tromba molto importante tra le altre cose. L'ho visto anche nel tovagliolino che avete presentato con i testi, di cui magari parleremo più tardi, dove è presente molto, molto spesso tromba, no? Quindi sì, nelle... tromba col doppio significato. No, sempre, puro riferimento allo strumento musicale. Sì, assolutamente. Bene, ecco, assolutamente. Allora, cerchiamo di capire un po' meglio quelle che sono le musiche della piccola orchestra Carasciò, presentandovi già un pezzo da disco per così per mettere in sintonia anche gli ascoltatori con quella che è l'atmosfera che si è creata qui in studio. Blu Radio Sera. Al politico italiano. E altro che serpenti, mangia poco e pagati parlanti. Queste sì che sono bestie, questi mangiano commesse contanti. E destra, sinistra, senza distinzione. Destra, sinistra, tutti sotto al tendone. Sono ninnoli da mettersi alle spalle. Non sono più le poche, quegli splendidi animali bravi a far girar le palle. A destra, sinistra, davvero ne vale la pena. E destra, sinistra, scegliete chi fa più scena. Italiano, volta il podio a Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E in questa canzone già in principio si parlava di politica, però voglio dire una maniera un po' da presa in giro e da prendere anche le proprie responsabilità, quindi un messaggio rivolto ai politici in questo pezzo che si intitola Il Nuovo Circo, e che fa parte appunto del nuovo lavoro della piccola orchestra Carasciò, che si intitola Made in Italy. Ancora buona serata alla piccola orchestra Carasciò, rappresentata da Paolo, Fabio, Diego e Michele in questa serata. In questo disco avete condensato praticamente la musica d'autore e la musica folk, folk tra virgolette, un folk molto ampliato, un folk che abbraccia anche i continenti balcanici, per esempio. È così? Sì, sì, sì. Allora, le canzoni nascono voce e chitarra, quindi come dicevi tu, musica d'autore. Musica d'autore, sì. Però, sì, musica d'autore, però virgolettata. Possiamo esatto. dire questo. Anche perché penso che sia difficile far digerire a un pubblico che non ti conosce un'ora e mezza, due ore di concerto, chitarra voce di un emerito sconosciuto. Esatto. Mm. Quindi riuscire ad arricchire una linea melodica con degli strumenti folk, quindi di musica popolare che arrivi a tutti, è stata un'idea che probabilmente ci ha portato poi a essere qui questa sera a festeggiare la data 100 e ad essere in pista, diciamo, perché probabilmente solamente voce e chitarra mi sarei fermato agli inizi. Certo, perché essere in pista 100 volte vuol dire muovere, vuol dire movimentare le persone, dare esatto. un certo messaggio alle persone. Non si possono fare 100 concerti così. Esatto, e quindi la strada del folk, degli strumenti popolari, degli strumenti come il mandolino, il violino, la tromba, che comunque arrivano, sono stati una scelta secondo noi vincente. Infatti dopo 3 anni, dopo varie sperimentazioni, anche altri strumenti abbiamo provato, questa è una formazione che dovrebbe, speriamo, sia definitiva. Mm. E comunque è molto, molto carina anche la presentazione, perché ricordiamo che il disco per intero è sistemato all'interno di un cartone da pizza, seppur in dimensioni ridotte, così da poter permettere l'inserimento di un CD. E voi non le chiamate le vostre canzoni, le chiamate le nostre pizze, a quanto ho capito. E quindi la pizza che abbiamo appena ascoltato, Il Nuovo Circo, si chiama in realtà Pizza 12 Ministri e dura 2,50 euro. Quindi, no, tra altre cose è anche molto carino leggere nel menù che c'è una mozzarella di Cazù, dei cori da strada, pomodorini con la trippa, abbiamo sentito la voce sì. di Totò con Votate la trippa, e sottofondo d'origano, che doveva essere anche un organo a quanto pare, e poi un mandolino americano. Esatto, abbiamo cercato di appunto unire gli strumenti che noi mettiamo all'interno di questa canzone con gli ingredienti della pizza. Quindi un piccolo gioco. Sì, e tra l'altro mi viene da dire adesso il prezzo è 2,50 euro, ma probabilmente ci sono ministri che ne valgono molto meno di 2,50 euro. Sì, siamo no. stati anche buoni a farla pagare 2,50 euro la pizza 12 ministri. Dipende se vogliamo considerarle a secondo al mese, sappiamo quanto costano nonostante tutto. Musicalmente c'è il mandolino e c'è la tromba, e proprio l'input, apre la finestra alla serie di canzoni che poi seguiranno. Escluso il pezzo che ho scelto io, che è un pezzo molto cantautorale, che è molto bello, che un po' si differenzia, ma leggermente, ma l'idea è sempre quella, il folk che sviluppa, che prende anche il cantautorato, dopo però, prima il folk secondo me. Cosa dici? No, è vero. Tra l'altro la canzone che hai scelto, che è Noi Sempre Più Uomini, è quella che, come dicevi te giustamente, si discosta un attimino di più da quello che è il nostro genere. Però in un CD di 7 canzoni, che è un po' il nostro primo lavoro discografico, avevamo bisogno di far vedere tutte le nostre facce, no? Giusto. Quindi abbiamo messo un reggae, abbiamo messo l'ultima canzone che è praticamente in acustico, e abbiamo cercato di farci vedere in tutti i nostri aspetti, ecco. È vero, una cosa giustissima e verissima. È lo spettro dei 100 concerti che avete fatto praticamente. È questo. Visto che si celebra i 100 concerti, sono stati celebrati con Made in Italy praticamente. O quasi, possiamo dire questo. Siamo arrivati vicino. Ecco, siamo arrivati vicino. Bene, allora, visto che la piccola orchestra Carasciò non è arrivata solo così, 4 passi da Bergamo o da Albino, dove abitate, vi siete portati dietro anche gli strumenti, abbiamo parlato prima di mandolino, poi ancora le chitarre, qualche percussione e la voce di Paolo. Esatto. Premettiamo una cosa. Sì. Siamo arrivati in anticipo qui da voi, quindi siamo andati a mangiare dei fantastici panini qua vicino, peperoni, cipolle, quindi siamo abbastanza appesantiti. Sì. Speriamo di fare una bella figura questa sera. Certo. Al massimo lo mettiamo tutto nel calderone del folk, ma anche sì, le stonate ci stanno. Certo. Benissimo, allora che canzone ci fate ascoltare? 70 estati. Blu Radio Sera. Estati, un uomo può vedere e più di mille piogge lo stesso sente cadere, mille miliardi di sogni nel cassetto e non riescono a uscire, un centinaio di donne ma una soltanto portava l'amore. Quello che resta alla fine del viaggio è quello che deve restare. È solo un sorriso alla fine del viaggio, soltanto un sorriso rimane. Mille milioni di nuove parole, 60 colori al secondo. 20 bottiglie di vino in un mese, toccando del cielo lo sfondo. E poi una giostra disfatta, distrutta dal tempo in un luogo lontano. Chilometri ancora, chilometri di strade vuote, per dire viaggiamo. E quello che resta alla fine del viaggio è quello che deve restare. È solo un sorriso alla fine del viaggio, soltanto un sorriso rimane. E no, sai quanto è bello giocare, giocare col mondo. E no, sai quanto è bello giocare, giocare col mondo. Quattro sorrisi in un giorno d'estate, oltre 200 orgasmi all'anno e la vita diventa miele. E poi alla fine del giorno ti addormenti con una canzone. E poi alla fine dei giorni quello che resta è soltanto emozione. Quello che resta alla fine del viaggio è quello che deve restare. È solo un sorriso alla fine del viaggio, soltanto un sorriso rimane. E no, sai quanto è bello giocare, giocare col mondo. E no, sai quanto è bello giocare, giocare col mondo. Sei. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora in diretta con la piccola orchestra Cara Show, che ci ha fatto ascoltare un bel pezzo che parla dei nostri anni, dei nostri prossimi anni e anche un po' della fine. È stata chiamata 70 estati. Sì, abbiamo fatto una media, forse siamo stati ottimisti, no, però 70 estati, penso che sia una giusta media, no? Ma visto magari che anche qualcosa di più. Sì, Dante Alighieri diceva nel mezzo del cammino di nostra vita e lui ne aveva 35 anni, esatto, quando iniziò a scrivere la Divina Commedia. Quindi questa la segniamo, cioè, perché è una citazione colta da riutilizzare. Sì. Non ci avrei pensato. Culta più che cosa. questo pezzo noi abbiamo scritto nella recensione, sì, odora molto di Caraibi e voi lo cantate un po' alla De André, un po' alla De Gregori, ma soprattutto come voi, cioè a voi la cantate nella vostra maniera. Però i Caraibi sì, odora di Caraibi secondo me, questo movimento. Cosa dici? Ma cosa dite? Possono parlare anche gli altri, Carmine. Infatti, volete parlare? Io una cosa volevo dire. Paolo poi autorizza a parlare anche gli altri componenti del gruppo. Vabbè, dai, coraggio, Fabio, quindi, Diego, Michele. Forza, forza. Parlo io, dai, diciamo Fabio, che sì. Profuma di Caraibi, ci siamo accorti anche noi che profuma di Caraibi. Adesso? In un secondo sì. tempo, penso che nessuno avesse pensato ai Caraibi nella canzone. Ma perché quando scriviamo la musica, no? Perché viene appunto in un secondo tempo, e questo pezzo è, possiamo anche definirlo vecchissimo, no? Per la storia dei, della piccola orchestra. Uno dei più vecchi, praticamente. Sì, sì, penso di sì. L'idea era quella di contornare un po' questo testo che parlava di cose comunque serie. È uscita questa musica, adesso sembra un po' banale, però ci concentriamo su altre. Non abbiamo pensato ai Caraibi quando la scrivevamo, insomma. Ma è giusto, no? La definizione Caraibi, sì, secondo voi? Sì, sì, arriva questo sound, sì, un po', esatto, anche con una chitarra slide, c'è nella versione ovviamente. Qui non c'è il violino, sì, anche quello dà un certo, sì, senso delle cose. E ci piace che sappia di Caraibi, no? Bene. Ricorda, arriva una certa leggerezza della canzone, sì, una leggerezza pesata, non una leggerezza frivola. E il movimento che faceva assieme alla Chiara, noi per telecamere ci facevamo il movimento dà proprio questo, il senso del movimento, del muoversi, e i Caraibi hanno molto movimento musicalmente parlando. Quindi io l'ho sentita così, noi della redazione, Alberto Pisco è il nostro direttore artistico che è qua, lo salutiamo, è appena arrivato, abbiamo focalizzato il pezzo in questa maniera, praticamente. Bene, allora Maurizio, dimmi. Parliamo anche di quello, lo facciamo ascoltare subito perché ne vale veramente la pena, di quel pezzo di cui la piccola orchestra Karashaw va proprio fiera di averlo scritto, di averlo cantato, e soprattutto tramite questo pezzo di aver anche, come dire, suonato, seppur indirettamente, aver fatto suonare il proprio disco all'interno di una programmazione Rai, che no, la mamma Rai. In questo caso un pezzo che si intitola Bashir, un pezzo che è dedicato a un uomo che viene dall'Africa, dal Nord Africa, che sta attraversando dei problemi non indifferenti, e che però c'è un particolare. Voi avete vissuto questa canzone forse prima che accadesse, perché si parla di Libia, sì, in questo caso. Ma prima che accadesse no. Il testo è stato scritto 2 anni fa, e come abbiamo spesso detto, paradossalmente è meno utile adesso di quando l'abbiamo scritto, nel senso che noi volevamo portare alla luce un problema che era quello appunto degli sbarchi e dell'immigrazione. Adesso è sotto gli occhi di tutti, nel senso che da qualche mese a questa parte è entrato in Rai perché è diventata l'attualità, e quindi siamo stati fortunati sotto questo aspetto. Però ecco, l'obiettivo della canzone penso che sia indirettamente stato raggiunto, nel senso che era quello di portare alla luce un problema che esiste già da tempo, solamente che la maggior parte di noi probabilmente si è accorta solo adesso con i telegiornali, con gli sbarchi di massa, ma non è una cosa nuova, ecco. Certo, no, ne sentiamo parlare già da diverso tempo, esatto. Però già il fatto che tu, Paolo, abbia toccato l'elemento Libia 2 anni fa, quando non c'era il minimo, come dire, sentore, oppure tutto veniva coperto a riguardo, o c'era qualche informatore segreto. Eravamo dei grandi amiconi della Libia. Quindi tenevate delle missive. Benissimo. Allora direi che, Maurizio, potremo ascoltare il pezzo che si intitola Bashir e poi torniamo qui in diretta, sempre con la piccola orchestra Karashaw. Blu Radio Sera. Bashir è aggrappato forte con la mano alla ringhiera, mentre sotto il mare luccica di una luna quasi intera. Escire un uomo forte, come forte il suo dolore, che lo ha spinto a ritrovarsi semimorto in mezzo al mare. Escire un uomo forte, come forte la speranza di chi cerca nell'Italia un porto di sopravvivenza. Bashir resta aggrappato e ha la testa fra le gambe, negli occhi ancora sangue, nella mente ancora sangue. Ha in bocca una preghiera, tutto quello che gli resta della sua terra stuprata, della sua famiglia morta. Bashir è un uomo libero e può scegliere di morire di botte in terra libica o di stenti in mezzo al mare. Bashir è un uomo libero senza libertà di scelta, o partire per l'Italia o morire senza fretta. Bashir su quella barca vive, Bashir su quella barca prega, Bashir su quella barca ride, Bashir in quella barca crede. E Bashir è un uomo fortunato perché riesce ancora a respirare. Vicino lui ne ha visti tanti spegnersi e finire in mare. Bashir è un uomo fortunato di una fortuna che nessuno vuole o vorrebbe mai avere. Bashir su quella barca vive, Bashir su quella barca prega, Bashir su quella barca ride, Bashir in quella barca crede. Disperato come la sua voglia di vivere, che lo spinge a continuare ancora, che lo spinge ancora a stringere nelle mani la ringhiera, nella bocca una parola: vivere. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora in diretta, buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato. Maurizio Calzavara è qui con me in studio. Non siamo soli, c'è la piccola orchestra Carasciò e stiamo imparando a conoscere le loro canzoni, non solamente per averle ascoltate ma anche per avere un commento in diretta con loro, proprio la piccola orchestra Carasciò che è venuta a trovarci da Albino in quel di Bergamo. Ciao. Eccoli qua. Allora, questo Bashir ne abbiamo già parlato, è una ballata un po' triste ma che alla fine dà un messaggio senz'altro positivo, anche perché Bashir vive. Bashir vive e prega, pur noi essendo atei di stampo e di scelta del gruppo, abbiamo voluto farlo pregare perché comunque era una delle poche cose a cui poteva aggrapparsi in quel momento. E Bashir vi ha aperto molte porte, molte strade. Sì, tra l'altro Bashir è stata una canzone che noi abbiamo registrato quasi per per gioco, nel senso che non era contemplata all'interno del CD, e l'abbiamo fatta perché, essendo in acustico, avevamo la possibilità di registrarla senza troppe spese economicamente parlando. Avevamo bisogno di una registrazione a livelli non dico amatoriali, però meno, esatto, meno importanti di quelli poi con cui abbiamo registrato l'altra parte del disco. Quindi Ebeshir era già edita l'anno scorso, sì, proprio perché è iniziata, è piaciuta e ha dato il suo riscontro, abbiamo deciso di metterla sul CD per farla ascoltare a tutti, ecco. Quindi ha vinto il premio Amnesty Italia Emergenti, poi siete cavalcati a Caterpillar, siete cavalcati a Demorai, quindi chiaramente si è un po' allargato, siete stati perché è iniziato un po' per gioco, come diceva Paolo, cioè non ci aspettavamo una progressione così. Facciamo Ebeshir, mettiamo qualcosa di nuovo nel nostro nuovo demo tape per promuovere, certo, i concerti, e poi è arrivato il premio Amnesty e poi tutto il seguito. È stato veramente un gioco, perché anche nel gruppo si parlava di Ebeshir, ma è un pezzo un po' diverso, no? Sì. Stiamo parlando di pezzi, ognuno diverso dall'altro, perché poi succede questo. Ma è un'altra faccia vostra. Non c'è la batteria. Sì, appunto. Mm. L'idea poi di metterlo, secondo me, è stata quella che comunque la piccola orchestra Carascio è rappresentata anche da questi brani, po' più impegnati, po' con una sezione un po' acustica più ricca rispetto alla parte elettrica. Perciò l'abbiamo portata avanti e è una progressione che speriamo continui. Però è iniziato proprio per scherzo, penso di dire. Andiamo a registrare Ebeshir. Sì, sì. Proviamo. E poi è nato tutto, è arrivato tutto quello che è arrivato. Sono sette pezzi che compongono questo EP, sono delle diverse vostre facce, molto collegate al folk, ma non solo al folk. Il folk è un punto di partenza, però sviluppa altre tematiche. La ballad soprattutto, Ebeshir, e la traccia numero 5 che abbiamo citato più di una volta, è una ballad. E poi tutto il resto. Poi c'è dello ska, c'è del reggae. Ska, c'è il reggae. Ci sono le percussioni quasi africane in alcuni momenti. Sì, sì. Tanto per citare il nome in codice di questo Ebeshir, avete voluto citare la pizza forestiera. Quindi, visto che si parlava di uno straniero, anche da noi nel Veneto esiste sempre la parola foresto, no? Uno che viene da fuori. Uno di cui non si conosce molto. Poi la caratteristica che ci accomuna, penso noi bergamaschi e voi veneti, è il fatto che ci reputano sempre delle persone un po' chiuse, no? Sì, i polentoni, quindi, famosi. Esatto. E quindi anche politicamente parlando, purtroppo, per fortuna, noi diciamo purtroppo, la linea politica a cui associano questi due paesi è quella che è, quella verde, no? Sì, certo. E quindi, vabbè, noi arriviamo da Bergamo e cerchiamo di dare un messaggio diverso da quello che è invece... Certo, parliamo più del sociale che non del politico, altrimenti ci scoppiamo da soli in questo caso. Non c'è la par condicio. Comunque, sì. Esattamente. Allora, ricordiamo che questa non è solamente una radio da sentire, ma anche da vedere, soprattutto nei momenti live che creiamo all'interno di Blu Radio Sera e di Rock Wave nella versione live. Quindi, per poter vedere anche in faccia i nostri protagonisti, potete collegarvi al sito di diretta rockwave.tk, dove sono collegate le nostre webcam. Curate dalla Chiara. Curate da Chiara, che cura anche le fotografie, insomma è un elemento indispensabile, ecco, l'importante è che non si avvicini troppo a me con la macchinetta fotografica. Vabbè, comunque, allora, piccola orchestra Carascio, visto che siete là con gli strumenti, io direi che potremmo ascoltare anche un altro pezzo. Va bene, spendo due parole su questo pezzo. Sì. È una cover, quindi presentiamo anche un altro cantautore che ha influenzato il nostro percorso, che è Giorgio Gaber. Certo. E questa cover si intitola La strana famiglia. Abbiamo voluto mantenere il messaggio di base, ironico, è già efficace di per sé, l'abbiamo lasciato inalterato. Abbiamo voluto solamente cambiare quelle parti del testo che erano vecchie, ma perché le trasmissioni sono cambiate, visto che La strana famiglia parla e prende per i fondelli alcune trasmissioni televisive. Sì. Noi abbiamo cavalcato quest'onda mettendo all'interno di questa canzone le nuove trasmissioni televisive che ci sono oggi, ma la sostanza non è cambiata, quindi le stesse cose ironiche le si possono dire delle trasmissioni di oggi. Quindi ecco, questa è una canzone di Giorgio Gaber a cui noi abbiamo modificato il testo. Speriamo non si rivolti nella tomba dopo, dopo questa esecuzione live. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. La mia famiglia non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. E anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'odio più alto. I miei genitori privi di gusto hanno cantato il loro rimorso in prima serata con Barbara D'Urso. E dalla vergogna lo zio Callisto si era nascosto, povero Cristo l'ha già segnalato a chi l'ha visto. E in famiglia c'è anche Marcello, un mezzo fallito, poverello, cerca fortuna nel Grande Fratello. Per non parlare di Evarista, la cugina feticista, studio aperto fa la giornalista. Come ti chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, pronto, pronto, tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, pronto, pronto, con Berlusconi o con la Rai. E a Peia basta c'è nonno Abele che lecca culi a chiunque vede, pensa ad essere Emilio Fede. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo che è analfabeta ma ha scritto un romanzo, è sempre lì al Maurizio Costanzo. E quel gran genio del Salvatore che ama le zoccole senza cuore, dalla De Filippi ricerca l'amore. Mio zio che ha perso la capra in montagna, che era da anni la sua compagna, ha fatto piangere anche Castagna. Chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, pronto, pronto, tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, pronto, pronto, con Berlusconi o con la Rai. E poi chi c'è? A nonna Concetta, perso l'uomo, poveretta, vuole andare alla vita in diretta. Sono anni che non guzza e questa è l'occasione giusta per provarci con Cucuzza. Vi ho presentato la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. È il bel paese sorridente dove si specula allegramente sulle disgrazie della gente. Come ti chiami, da dove chiami, stiamo diventando tutti scemi. Pronto, pronto, pronto, stiamo diventando tutti coglioni. Pronto, pronto, pronto, con Berlusconi o con la Rai. Pronto, pronto, pronto, stiamo diventando tutti coglioni. Pronto, pronto, pronto, con Berlusconi o con la Rai. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Maurizio, smetti di ridere. No, no, ci ha veramente fatto divertire questo pezzo. Assolutamente. Molto, la molto piccola orchestra Carasciò qui in diretta negli studi di Blu Radio Veneto è venuto a trovarci con le sue pizze, queste pizze davvero speciali, e poi questa canzone di cui abbiamo conosciuto il testo solo pochi minuti fa, anzi mentre la stavano cantando, che ci ha veramente divertito. In questo momento sono proprio una banda, Sì. Come una banda, assolutamente. Quattro elementi, come una banda, assolutamente, proprio dal punto di vista anche musicale, molto divertente. Bene, allora, per conoscere qualcosa di più riguardo alla piccola orchestra Carasciò, oltre ad ascoltare la nostra trasmissione, che poi andrà prossimamente anche in replica, vogliamo sapere da voi quali possono essere degli indirizzi utili. Tocca a me. Vai. Sì, tocca a te. Parliamo con Fabio. Gli indirizzi utili per contattarci, giusto? Sì, giusto, sì. Giusto. Perché, dunque, sul CD si trovano. Ma però per acquistare il CD... No, mi fa ridere una cosa, per quello che sono andato in crisi io stasera, sono capo. Ma Paolo ha lasciato la parola a me, lui che ha trovato una soluzione geniale per dare gli indirizzi, no? Perché lui non è molto informatico, no? E dice, vabbè, ma perché volete i nostri contatti? Andate su Google, scrivete sì. Piccola Orchestra Carascio, esce tutto. No, sì. Ho trovato questo modo molto naturale, certo. Piuttosto che dire tutto l'indirizzo. E perciò mi sento anch'io di dire la stessa cosa. Poi su, appunto, digitando Piccola Orchestra Carascio su Google, trovate il Facebook, il MySpace, il nostro sito internet, che è poi il centro principale di comunicazione. Mm-hmm. E lì si può trovare la mail, il numero di telefono. Potete chiederci i CD e noi spediremo i CD, perché appunto essendo indipendenti non abbiamo una distribuzione, anche se dalle nostre parti c'è qualche shop che vende i nostri CD, i nostri gadget e il libro, dove un'antologia di cui non abbiamo parlato prima per dimenticanza, dove appare il testo Bashir. Perché con il comitato dello sciopero del primo marzo, che è un comitato che ha organizzato in Italia lo sciopero degli immigrati per il primo marzo, no? un po' una provocazione, provate un giorno senza di noi, no? Senza gli immigrati, questo comitato tramite la Compagnia delle Lettere ha pubblicato questo libro e ha chiesto a noi l'autorizzazione a poter utilizzare il testo di Bashir. Per noi è stato solo che un piacere. È un passo in più, no? Sempre che Bashir ha fatto nella nostra carriera. Ho capito, benissimo. Non solo musica, allora, praticamente. Non solo musica, ma la parte letteraria spetta poi a Paolo Piccoli, insomma, sì, perché giustamente i testi li firma lui. Poi non firma solo i testi, perché in realtà lui in saletta arriva anche con gli accordi della chitarra, no? E come fate un pezzo, costruite un pezzo voi? A me interessa sapere così. Come Paolo dà il testo e poi come si sviluppa? È difficile, ho sempre 7 elementi che sviluppano un pezzo. Innanzitutto deve accadere il mercoledì sera dalle 21 alle 23:24, perché è il giorno di prove, no? Si trova in saletta, c'è questa proposta di un brano testo e chitarra e serve l'idea di qualcuno. Se facciamo la reggae questa mi suona bene reggae, no? Dei pezzi sono nati così, il grappa e fogli di giornale che ascolteremo dopo probabilmente non c'entrava niente con l'originale. C'è anche questa disponibilità da parte di Paolo a stravolgere un po' la sua opera. E, appunto, serve un'idea di questo tipo. Poi ci sono dei pezzi che in realtà in un quarto d'ora sono pronti. Ma questo non vuol dire che siano semplici, cioè magari anche ricchi. Magari, per esempio, il Nuovo Circo mi sembra di ricordare che è un pezzo che è servita mezz'oretta di saletta. Invece ci sono altri brani, per esempio 70 Estati, che magari è un po' più, sembra più semplice anche l'arrangiamento, ma in realtà si porta avanti per 2-3 prove. Purtroppo dipende dal momento. Dipende dal momento, l'idea giusta, sì. L'idea giusta, sì. Dal luogo, dall'input, dal feeling, tante cose. Poi, sì, dimmi. Sì, anche sentendo solo una base, diciamo, solo di chitarra, uno ha l'orecchio, voglio dire, sia per quanto mi riguarda, per esempio per la batteria, piuttosto che per altri strumenti ritmici, già magari nell'orecchio risuona un potenziale ritmo, piuttosto sì. Che e poi anche secondo me dal testo, voglio dire, in base a come parla, cioè abbiamo visto che i nostri testi sono un po' la nostra forza e da lì si può anche trarre una situazione e dire da questa cosa vogliamo renderla, cioè questo testo è talmente graffiante, per dire, allora dovremmo dargli anche una certa musica, una certa energia, una certa spinta in più, diciamo, sì. Viceversa una canzone come Bashir, per esempio, dove la situazione sono un po' più sommessa, una situazione un po' più calma, allora dove fa più pensare, insomma, una situazione un po'. Capito. Così. Penso che anche, poi ripeto, siamo in sette teste e ognuno ha il suo strumento dove chiaramente ha la possibilità di esprimere un qualcosa in base alle sue capacità e quello che riusciamo ad esprimere, penso che è anche bello per noi. E quindi questo. Un'altra cosa, sette teste, ogni tanto, una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, dobbiamo, ma penso che ci venga naturale, c'è la serata non della bestemmia ma dell'insulto, no? Nel senso che è anche terapeutica questa cosa. Ogni tanto ci si trova in saletta, si va per suonare e invece si va a finire che più che litigare iniziamo a tirar fuori le patate bollenti, no? È una sorta di terapia, anche questa ci serve. Come fanno tutti i gruppi. Ho visto, esatto, recentemente anche un documentario, solo i Metallica che litigavano tra loro. Dopo. E questo è veramente una cosa che aiuta, a lungo andare aiuta, nel senso che almeno non restano dei risentimenti dietro. Certo, quindi certo. Quindi può essere divertente. Una terapia di gruppo, sì, in questo caso. Sì. Benissimo. Potreste scrivere un altro disco basato sulla terapia. Ci possiamo pensare. delle prese dirette dalla saletta potrebbe uscire una cosa. Che altro sarà l'idea del packaging che diventerò. Poi gli insulti bisogna, pensarli bene, no? Esattamente. Vabbè, allora ci ascoltiamo un altro pezzo da disco di questo Made in Italy che stiamo presentando stasera, e quindi diamo spazio anche a Grappa e Foglie di Giornale. Blu Radio Sera. Vagabondo senza tetto, mille sogni da cantare. Barba lunga, sguardo fiero, pancia gonfia per il vino. Passi notti da sciamano, ti addormenti che è mattino. Strane idee da realizzare, non importa se son folli, perché folle è il tuo viaggiare. Vecchio stronzo senza tempo, quanta vita porti dentro, quante gocce di splendore sotto un volto da barbone. Vecchio stronzo senza tempo, quanta vita porti. All'inverno la tristezza rende amore, quando piange e cala il giorno. Donne, vino, sigarette sulla strada dentro al cuore, per te nulla mai per sempre, il mistero ha un buon odore. Vecchio stronzo senza tempo, quanta stare al pari, tu sorridi, dai soltanto grappa i fogli di giornale. Vecchio stronzo senza tempo, quanta vita porti dentro, quante gocce di splendore sotto un volto da barbone. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora all'interno di Blu Radio Sera con la piccola orchestra Cara Show. Abbiamo scelto un altro pezzo del loro ultimo lavoro che si intitola Made in Italy, con questa copertina a forma di pizza che invoglia sempre di più, chissà, mette un po' di appetito anche. Questa canzone, anzi pizza, che ci siamo ascoltata, che si intitola Grappa e Fogli di Giornale. Sì, questo è un pezzo reggae, questo l'avete scritto chiaramente molto prima dell'uscita dell'album postumo di Bob Marley, che è uscito da pochi mesi, il famoso concerto che è stato ripescato. Chiaramente, sì. Però il reggae è una cosa importante, entra nel folk, non è folk il reggae, reggae è un'altra branchia, se si può dire, un'altra via musicale. Però come mai vi ha attirato il reggae? Ma probabilmente è il ritmo. È il ritmo. Perché queste cose in levare, no? Come lo ska. Esatto. Cioè dal vivo rendono. Molto rendono. Per tu riesci a mandare un messaggio, che è il testo, con un ritmo accattivante, cioè la gente balla, muove la testa. Il reggae ultimamente più stiamo riuscendo a far ballare a tutti i concerti, che era uno anche degli obiettivi iniziali. Sì. No? Perché deve essere divertente venire a vedere un concerto della piccola orchestra Carascio, se no non si sta seduti di solito. A parte i set acustici, come quelli di stasera, insomma, se no... Se non c'è partecipazione col ballo. Beh, la fotografa adesso ha ballato. Effettivamente sì. Ballava, cantava. Ti stiamo divertendo anche se siete seduti e non vi muovete. Comunque, il fatto che il reggae sia impegnativo l'abbiamo testato a nostre spese in studio di registrazione. Nel senso che sulle 7 canzoni penso che sia stata quella che ci ha dato più problemi. Paolo? Perché riuscire a fare. Diritto, concedetemi i termini, il tempo reggae dall'inizio alla fine è una cosa più difficile di quanto sembra. Riescono solo in Giamaica, perché perché si fanno si aiutano, si aiutano in qualche maniera. Bon Marley insegna, insomma, e poi tutti i suoi seguaci in questo senso. Sì, non siamo abituati noi a suonare reggae, forse quello il motivo. Sì, quello volevo dire. Esattamente, anche se gruppi reggae ce ne sono in Italia, soprattutto anche molto tosti, molto importanti, specialmente uno di Torino, famoso. Però, stiamo parlando degli Africa Unite. Bravo. Sì. Bravissimo. Dove c'è il batterista, tra le altre cose, che dovrebbe essere o il marito o il fidanzato. Il fidanzato della Luciana di Fizzetto, vero? Esattamente. Sì, perfetto. Sì, è sempre lui. Vedi quanto siamo colti. Sì, è lui, effettivamente. Il nostro. Quindi hai detto, Paolo, è stato difficile focalizzare un pezzo reggae nell'ambito dei set che avete fatto. Sì, perché comunque dal vivo c'è sempre tutta un'altra impostazione, un altro impatto, quindi quello che arriva è l'energia di un concerto. Mentre su CD bisogna essere precisi, no? Bisogna tentare di dare il meglio di tutti gli strumenti senza fare errori. E il reggae è quello che ci ha dato più problemi, forse perché ovviamente venendo dal folk, come dicevi, c'entra ma fino a un certo punto. Quindi il folk... con i rullanti che comunque picchiano dall'inizio alla fine, è sempre piuttosto facile, ci si appoggia sulla batteria. Nel reggae io non ho ancora capito chi appoggia su chi, però... È tutto un lavoro di basso e batteria comunque, anche il reggae, mi sembra, no? Quindi, anche se quella chitarrina in levare che rende molto, ecco, forse non l'ho imitata alla perfezione. Vabbè. Cosa ci fate ascoltare questa volta dal vivo? Ma adesso facciamo un pezzo un pochettino più serio, no? Più raccolto. Oltre a pezzi ironici abbiamo anche ogni tanto questi. Di solito li facciamo all'interno delle nostre serate acustiche. Quest'anno abbiamo deciso di dividere i live in acustici, in set acustico e set elettrico. Set acustico ci permette di poter dare la possibilità all'ascoltatore di focalizzarsi di più sui testi, no? Rispetto agli arrangiamenti o alle musiche. Quindi l'obiettivo, che è quello di far ballare, lo teniamo per gli elettrici, e l'acustico lo teniamo per far ascoltare le canzoni un pochettino più in maniera più raccolta, più sensibile. Questo è uno di quei pezzi che quindi dal vivo in elettrico non facciamo e ci teniamo per l'acustico. E si intitola Il Nodo. Blu Radio Sera. leggero, cullato dal vento, aumenta il passare del tempo, si espande nell'aria in rivoli e gorghi, toccando pensieri nascosti. Diventa concreto, t'afferra, t'affonda, ma impari a nuotare nell'onda. Presto si ferma con tardi pensieri, speranze, progetti futuri. È questo che chiami tristezza. Certo, segna segnandoti dentro, dolore, tristezza, estri di vita e d'essenza. Anche se gli occhi ti pesano il pianto, tu sai che è questione di tempo. Seccano le lacrime, s'apre lo stomaco e aspetti impaziente quel fremito. Stato di grazia che rende bellezza, aprendo la tua debolezza, ti chiudi in te stesso per capire il mondo, succhiandolo a fondo, succhiando. È questo che chiami tristezza. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed ecco qua, abbiamo sciolto anche questo nodo in compagnia della piccola orchestra Carasciò. Abbiamo ascoltato proprio questo pezzo che si intitola Il Nodo. Sì, molto bello, molto fluido, una ballata con la B maiuscola. Possiamo dire, Flavio, che non è elettrico, ma sembrava elettrico, con molta potenza, molta grinta, con molto pathos, molta forza. C'era, l'energia c'era. Secondo me, chitarre acustiche sì, ma chitarre graffianti che entrano immediatamente. Sì, poi qua serviva la presenza del violino che addolciva un po' il tutto, no? Però sì, l'idea era quella di farla con delle chitarre che fossero graffianti, sì. Cioè anche, che non lasciano respiro praticamente. Esatto, sì. Noi l'abbiamo sentita così, sì, io e Flavio. Sì. Salutiamo ancora una volta chi non solamente ascolta la trasmissione, che comunque, a cui comunque va i nostri saluti, ma anche a chi ci segue, via video con il sito diretta rockwave.tk. Vedo che ci sono numerose persone collegate con noi. Tu hai parlato di fase elettrica e fase acustica. La fase elettrica come si svolge, come si sviluppa? Sette movimenti, sette forze, sette potenze musicali nella fase elettrica. Sì, e nella fase elettrica tendiamo a mantenere tutti gli strumenti all'interno delle canzoni, ovviamente con tutti i limiti del caso. E a parte che la nostra fase elettrica è sempre una fase elettrica molto, molto acustica, nel senso che anche la chitarra elettrica che suona Fabio di solito è una chitarra che ha una distorsione minima, no? Una specie di pulito alzato a... Sì. Sono pochissimi i brani in cui personalmente uso il distorto, ma perché penso, io sento i pezzi così. Ti vengono così? Sì, nonostante io tenga a sottolineare che vengo dal grunge, no? Io comunque ho un passato da rockettaro, bello duro. Da garage rock, ecco. Sì, però io qua i pezzi li sento impulito e mi piace così, insomma. E il violino come in fase elettrica? Il violino ha un sacco di problemi tecnici, diciamolo. Anche il violino è uno strumento tosto. Sì, anche perché sovrasta molto, no? Voglio dire, nell'insieme della musica. O sovrasta o non si sente. O non si sente. Perché essendo uno strumento comunque suonato per l'acustico, no? Sì, sì. Disegnato per l'acustico, in elettrico ha sempre i suoi problemi, rientri e queste cose qui, quindi... Riuscire a farlo suonare dal vivo serve un fonico, non serve da poco. Un fonico esatto. Comunque anche noi nel nostro piccolo all'interno di Blu Radio Sera abbiamo fatto suonare qualche violino. Certo, è vero. Ecco, non ultimo Michele Gazic che è venuto qui. Sì, forse ve lo conoscete, no? Perché lo conosciamo perché adesso abita dalle nostre parti. Sì, perché era del Veronese lui prima, no? Per qualche consiglio sul CD. Bene, bene, no? Molto, molto bravo. È bravissimo, sì. Un artista veramente con... la maiuscola, tanto per parlare di questo. Poi in elettrico ci sono le percussioni di Michele. No, Michele. C'è addirittura c'è la batteria. La batteria. Sì. E a proposito di mandolino, io ricordo un mandolino elettrico suonato molti anni fa nei Jefferson Airplane. Quindi, ragazzi, era un mandolino. Però. Quindi non c'è niente, non ci sono delle divisioni. Si suona e basta, l'elettrico acustico, chiaramente nella versione vostra è l'elettrico leggermente elettrico, però qualche volta se premete l'acceleratore non succede mica niente, assolutamente. Ma perché poi l'acustico... il mandolino distorto. Anche quello, anche quello. Ecco, il mandolino distorto compensa la chitarra pulita, mi sa. Ecco. Ma anche questa divisione acustico-elettrico, che in realtà, come diceva Paolo, non è molto presente, è più dovuta ai problemi di spazio. Perciò si va nel tal locale dove le percussioni non possono essere suonate, percussioni in senso batterie con la cassa, che perciò crea problemi di vicinato, e perciò bisogna presentarsi in una sezione più soft, chiamiamola soft più che acustico, sì, magari. Chiaro, perché comunque i pezzi non cambiano molto, l'arrangiamento, così siamo sempre abbastanza acustici. Ascoltiamo un altro pezzo del vostro lavoro, quindi un'altra pizza, e diamo il benvenuto anche al Tempo dei Villani, che poi torneremo a commentare insieme. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Fai diritto con la schiena, fai il saluto con la mano, usa il tovagliolo a cena, mica vuoi fare il villano. Villano. Non sdraiarti dappertutto, non fumare non è giusto, mettiti i capelli a posto, qui si tratta di rispetto. Villano. Lascia stare le canzoni, tu ti devi raddrizzare, non badare alle emozioni, adesso è ora di cambiare. Cambiare, cambiare, cambiare. Sì, ma non stasera. Guarda che luna, che atmosfera. Se vuoi prendimi domani. Adesso zitto che è tempo dei villani. Lai la la la la la. Lai la la la la la. Lai la la la la la. Lai la la la la la la. Trovati un lavoro fisso, gira con persone a posto, è la chiave del successo, non parlare con gli scemi. Corri sempre più, non posso, tieni il passo, fallo adesso. Per produrre e consumare, prima o poi devi cambiare. Cambiare, cambiare, cambiare, yeah, yeah, yeah, yeah. Guarda che luna, che atmosfera, se vuoi prendimi domani. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora con un'altra canzone allegra, mentre sentiamo anche la chitarra di Ricky in sottofondo, sempre la vostra. Sì, sì, sì. Sì. Sentiamo. Abbiamo monopolizzato lo studio. Il bello della diretta, stavo andando ancora un altro pezzo, perché ormai siamo proprio presi da queste vostre canzoni. Ecco, allora, questo è il tempo dei villani, quello che abbiamo sentito adesso in sottofondo era anche un dispetto, voglio dire così, da villano. Per dire, non cambio stasera, cambio da domani, quasi come un seguire la dieta. Comincio da domani perché questa sera c'è da mangiare fino... Sì, un comincio ironico, nel senso, ecco, sì, tu aspettami, sì, che io arrivo, capito? È autobiografica, quindi i villani in questo caso siamo noi, ok? Che forse non vogliamo abituarci a quello che ci impongono di fare, ok? Quindi dici pure quello che ci devi dire... Al massimo noi domani tenteremo di farlo, ma adesso, sì, non romperci le scatole, che noi facciamo quello che vogliamo. Sì, ci impegniamo, ma quando vogliamo noi. Esatto. Ecco. Musicalmente c'è una chitarra elettrica ed una tromba, e qua noi della redazione abbiamo scritto che si avvicina qualche momento a certe cose dei paesi dell'est europeo, quindi paesi balcanici. Siete d'accordo su questa impostazione, sì, che abbiamo dato? Bisogna dare atto, e lo citiamo, a Mauro Breda, che, sì, ha collaborato al disco e ha fatto le percussioni nel disco. Perfetto. Che nel periodo in cui abbiamo scritto questa canzone suonava la tromba. La suonava lui allora? La suonava lui, esatto. E quindi questa influenza balcanica viene da lui, sì sì sì, anche perché lui ascoltava molti, sì, gruppi alla Goran Bregovic, certo, e quindi... Sì, di... c'è questo input, questo collegamento, esatto, possiamo dire, sì, questo. Sì, sì, sì, sì. Oppure la Cozzani Orchestra, mi ricordo che c'era, che andava molto di moda, esattamente, no? Qualche, sì, tempo fa. Ok, 22:11, 22:12 quasi, ma abbiamo ancora tempo prima della conclusione del programma. Sì, abbiamo così tanto tempo che direi, ragazzi, che forse se ci fanno ascoltare qualcos'altro, sì, dal vivo, visto questa che sono così è una carichi. Canzone che non ha ancora trovato la sua veste elettrica. Quindi è una canzone che ci portiamo dietro da 2 anni, ma l'abbiamo sempre lasciata in acustico, forse perché non abbiamo ancora trovato la sua vera vena, no? Cioè, alcune canzoni escono in mezz'ora, alcune canzoni dopo 2 anni sono ancora lì, sono ancora in stand-by. Quindi vi facciamo sentire un po' quella che è la bozza. Diciamo che possiamo con questa canzone entrare un po' nella saletta, sala prove, prima ci chiedevi come nascono i pezzi. Questo è quasi ancora gli inizi. E se la vita è un ciclo? Vado, scusa. E se la vita è un ciclo, dall'inizio alla fine gira, allora anche la miseria, la sfortuna e la rabbia più nera. E se la vita è un ciclo, allora mi va di girare, insieme ai pensieri e al batter del cuore che fermi non possono stare. Quello in cui credi adesso non può essere domani lo stesso. Quello che è stato non è rimasto, quel che sarà non è uguale. È solo questione di tempo, è solo questione di quando. Se non c'è niente che duri per sempre, non perde interesse il mondo. Quello in cui credi adesso non può essere domani lo stesso. Quello che è stato non è rimasto, quel che sarà non è uguale. Ridi di questo tempo che ci prende, il tempo che ancora rimane. Tienilo acceso godendoti l'attimo quando lo senti passare. Se la vita è un ciclo e tutto si porta dietro, tutto finisce, tutto rinasce, tutto continua a girare. Quello in cui credi adesso non può essere domani lo stesso. Quello che è stato non è rimasto, quel che sarà non è uguale. Ridi di questo tempo che ci prende, il tempo che ancora rimane. Tienilo acceso godendoti l'attimo quando lo senti passare. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo detto che si trattava di fare un'ulteriore prova prima di inserirla in un prossimo futuro disco. Ebbene, noi ve l'abbiamo registrata. Esattamente. Esattamente. Così potete sentirla ancora come è venuta in questa serata. Sì, ma una prova riuscita benissimo, secondo me. E perché, come mai è ancora nel cassetto? Perché non siete ancora sicuri? Ma perché non ha ancora... Fabio che non riesce a digerire. Ah, Fabio non riesce a digerire. Sì, ma non è che se non la digerisco io, il pezzo si blocca, insomma... Secondo me nella sì, sì. Poi adesso ho trovato qualche risvolto, Anche solo questo battito di mani a me piace molto, perché gli dà un è una stupidata, no? Cosa cambia mettere un battito di mani, però gli dà una caratteristica, una sua un colore identità, diverso. Sì, sì, sì. E forse è quello che gli mancava, perciò magari mi sono convinto adesso. Cosa volete? Bene. Allora siamo serviti noi di Blu Radio Sera. Benissimo. Allora, prossime date, avete qualcosa da proporre al nostro pubblico? Ok, qua Fabio che è l'hard disk del gruppo. Sì, dunque abbiamo da proporre la data che faremo. Vabbè, venerdì sera suoniamo un breve set acustico per presentare l'antologia dove c'è Bashir, insomma, che, di cui parlavamo prima, sì, al Caffè Letterario di Bergamo in via San Bernardino, che è un luogo interessante per la scena bergamasca, insomma. Non tutti lo accedono, per noi, insomma. Sì, appunto, c'è questa cosa dello spazio culturale che... insomma, è un bel palcoscenico, siamo felici di poter accedere. E poi suoneremo invece al Rock in Golena a Crespino, in provincia di Rovigo, sì, domenica, per il concerto del 1° maggio. C'è tutto un festival, noi avremo uno showcase di mezz'ora, 40 minuti penso. E il pomeriggio, hanno detto che la festa è veramente molto bella, noi confidiamo nel bel tempo, perché sarebbe la prima data poi estiva, pre-estiva, chiamiamola così. Poi ci fermiamo un attimo per maggio a ridefinire le idee e vi invitiamo sul sito a rivedere un po' le date del tour estivo che partirà il 28 maggio. E speriamo fino a settembre di essere attivi, con le ferie in agosto, perché siamo una piccola SPA e i dipendenti giustamente reclamano le ferie. E certo, per avere il disco come possiamo fare praticamente? E per avere il disco vi invitiamo veramente a contattarci, okay, su Facebook, sotto il profilo Piccola Orchestra Crashaw, sulla pagina, lasciarci un messaggio, oppure all'indirizzo email info@piccolaorchestracrashaw.com, senza accenti perché in internet non funzionano. Esatto. Scritto con la K, ricordiamolo. Sì, sì. Il costo del CD è di 10 euro, insomma, poi quando ci si contatta... ci mettiamo un po' d'accordo su come svolgere il pagamento. Ultimamente sì, ci stiamo facendo, non so, io lo dico anche in radio, magari consiglio a qualche altra band, ci facciamo ricaricare il cellulare di 10 euro, no? Fantastico. Non so, è un metodo, siamo in 7, perciò qualcuno ha sempre bisogno di un 10 euro. Anche perché da buoni bergamaschi, no? Cerchiamo di tirare a casa il gruzzoletto in ogni maniera. Eh beh, sì, sì, cioè... Sì, mi no, ricordo... purtroppo adesso è brutto... Sarebbe bello regalare il CD a tutti, no? Sì. Okay. Però purtroppo dietro c'è una spesa che la gente magari non immagina. Insomma, abbiamo investito un sacco di soldi. Abbiamo investito i soldi di 2 anni di concerti, ok? E li abbiamo messi tutti perché ci credevamo, ho detto proviamoci. Poi come va, va, insomma. E mi sembra stia andando bene. Sì, sì. Noi siamo soddisfatti. Perciò purtroppo dobbiamo chiedere un piccolo contributo per le spese che abbiamo sostenuto. Vabbè, allora abbiamo capito come entrare in possesso anche del disco. Ascoltiamo un altro pezzo del vostro Made in Italy, una pizza che si intitola La ballata del creato. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Fare a botte con Dio, vorrei proprio fare a botte con Dio. Un occhio nero, un labbro rotto, qualcosa che mi resti addosso. Un occhio nero, un labbro rotto, qualcosa che mi resti addosso. Forse adesso sei un po' occupato e non guardi il tuo creato. Ma forse adesso sei un po' occupato e non guardi il tuo creato. c'è gente che muore, qui c'è gente che muore, qui c'è gente che aspetta ancora la giustizia del Signore. Vorrei tanto fare a botte con Dio, vorrei proprio fare a botte con Dio, un occhio nero, un labbro rotto, qualcosa che mi resti addosso, così che abbia per una volta una prova tangibile e certa. Magari forse sei un po' arrabbiato con chi t'ha contestato, magari forse sei un po' arrabbiato con chi t'ha condannato, ma qui c'è gente che prega, qui c'è gente devota, qui c'è gente che aspetta ancora un miracolo, una prova. E vorrei tanto fare a botte con Dio, vorrei proprio fare a botte con Dio, un occhio nero, un labbro rotto, qualcosa che mi resti addosso, un occhio nero, un labbro rotto, qualcosa che mi resti addosso. A forza di pensare mi è venuta un'intuizione, forse non esisti, sei una splendida invenzione. Magari, magari è vero, però è meglio non dirlo troppo in giro. Perché qui c'è gente che crede, qui c'è gente che crede, qui c'è gente che non è niente senza la sua fede. Così vorrei tanto credere in un Dio, vorrei tanto averne uno anch'io. Senza un Dio non ho nessuno con cui lamentarmi, senza un Dio non ho nessuno che poi verrà a salvarmi. E quindi lo voglio alto, un po' bronzato, magari con gli occhi azzurri, comprensivo, che mi lasci bere. Se vero con chi mi fa del male, poi lo voglio saggio, che sappia ridere ed amare, che fumi un po' d'erba insieme a me, che ami le donne, che sappia reggere alle sbronze. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio, Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. È un augurio che accettiamo volentieri, che Dio vi benedica, nel finale ci stava proprio. Una maniera un po' particolare di vivere il proprio credo e la propria fede, che voi avete tradotto in musica in questa maniera un po' tribale, un po' De Andreiana, diciamo così. Vero. Un inizio allo Osibisa, loro non conoscono gli Osibisa, sono molto giovani, io ho una certa età, però l'inizio era proprio queste percussioni che tu hai fatto, era proprio un inizio alla Osibisa. Quando tu andavi all'asilo, Maurizio, gli Osibisa già facevano i primi concerti. Esattamente. Scusa, come hai detto Michele, non l'abbiamo sentito. Non posso competere, nel senso che all'asilo, io mi sa che non è ancora. No, tu andavi all'asilo. Ah, io andavo all'asilo. Sì, sì. No, Maurizio andava all'asilo. No, io Maurizio. Allora. Vabbè, abbiamo tirato in ballo anche gli Osibisa, pace l'anima loro. Ci sono ancora comunque in giro, qualcuno sì, perlomeno. Qualcuno sì, sicuramente. Bene. Beh, tu hai detto giustamente, Flavio, ritmo tribale e De André. Sì, è il pezzo che più si accosta a De André. Infatti, di tutti questi è quello che più ci accomuna a lui. Anche nelle recensioni ce lo dicono, no? E poi non è neanche sempre positivo assomigliare a qualcuno, soprattutto se poi l'eredità di De André la conosciamo tutti. Quindi essere associati a De André è una cosa, non so se positiva o negativa. Pesante forse. Pesante, esatto. Quindi noi ci prendiamo molto più alla leggera. Infatti la canzone parla di un tema sicuramente molto delicato, ma la musica che veste questa canzone è invece piuttosto ironica, perché abbiamo voluto creare questa commistione tra un testo che dà da pensare comunque, se uno lo ascolta bene qualcosa in testa gli arriva, no? Con una musica invece un pochettino più tribale, un pochettino più leggera, perché non volevamo caricare troppo e renderla quindi troppo cantautorale, troppo pesante, ecco. Mentre in sottofondo riusciamo a sentire anche gli Osibisa. Ecco, sì. Eccoli qua, eccoli quindi, qua. Ai tempi ancora di Sunshine Day. Bene. Quelli. Erano quanti anni fa? 1970. Sì, esattamente. Poi avevano delle copertine meravigliose nei loro dischi. Coloratissime. Sì. Mi pare che il disegno fosse di Roger Dean. Roger Dean era quello che scriveva i disegni, che faceva i disegni per gli Yes, quindi un pittore straordinario. Quindi. Bene, ma torniamo a parlare di Piccola Orchestra Carasciò, anche perché la copertina, insomma, non è di quell'artista che hai appena citato, però in originalità assolutamente carina. Merita di avere il disco, non solamente per il disco, ma anche per la copertina. E quindi, che secondo me è inarrivabile. Quindi citiamo anche il grafico che ha curato insieme a noi. Che non è l'asino che è qua in copertina. No, è un asino, ma non è quello in copertina. Che si chiama Emiliano Perani. Sì. E quindi noi ogni tanto con lui facciamo, come dice Fabio, delle sedute, o no? A casa di questo Emiliano, in cui escono delle idee a volte assurde, a volte invece vincenti, no? Ma è la serata degli insulti che si citava prima. No, è un'altra. Sì, sì, è un altro. Sono delle serate a tema, diciamo. Sì, ci sono delle serate a tema, esatto. E quindi questo ragazzo, Emiliano Perani, segue da 2 o 3 anni il nostro lavoro discografico con le grafiche, appunto, e ci sta curando anche i video di alcune di queste canzoni. Bene, allora noi ringraziamo la Piccola Orchestra Carasciò per essere stata con noi, quindi salutiamo Paolo, Fabio, Diego e Michele, grazie per averci presentato il vostro disco Made in Italy. E ricordiamo, per entrare in possesso di questo, cosa fare? Cercare su Google Piccola Orchestra Carasciò, poi tutto il resto viene da sé. Benissimo, Maurizio, breve parentesi per i prossimi appuntamenti live. Domani non si sa. Domani salta? No, no, vedremo. No, ci sarà una sorpresa. Sì. Ci sarà una sorpresa. E giovedì avremo mentre una cantautrice, sì, che viene da Milano, monzese praticamente. Bene, allora ringraziamo ancora una volta la Piccola Orchestra Carasciò. Io e Maurizio ce ne andiamo, mentre lasciamo ancora aperti i microfoni per loro, che hanno ancora qualcosa da dirci. Sì, volevo fare una premessa su questa canzone. Sì. Come La Strana Famiglia di Gaber, abbiamo deciso di rivedere anche un'altra canzone famosa nel mondo dell'italianità, una folk popolare, Dez Amore, con questo inglese maccheronico, e noi abbiamo voluto spostare il centro dell'attenzione da Napoli a Milano, perché siamo vicini appunto a Milano, e ironicamente abbiamo trasformato quindi Dez Amore in questa versione che vi facciamo sentire ora. Benissimo, quindi allora passiamo i saluti, Maurizio, noi ce ne andiamo, anzi restiamo in silenzio ad ascoltare la Piccola Orchestra Carasciò, che ringraziamo ancora per essere stata qui con noi. Grazie, ragazzi. Grazie a voi. Grazie. Buonasera a tutti, vi lasciamo appunto con la Piccola Orchestra Carasciò. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. When you arrive in Milan, you don't say che soave splendore. When you arrive in Milan, you will say chi me l'ha fatto fare. Mezzinso, tal Madunin, traffico e casin, nebbia di Milan che bordella. Parcheggia solito tram tram, visitina duom, due coglioni per terra. When you arrive in Milan, you don't cry, prima o poi te ne andrai. When you arrive in Milan, con il bus o col tram, we will sing, ai ai ai. Sant'Ambros che il Valos, l'escapat con la Porsche in Brasile. Mentre chi bad dreams si sta fermi in colonna per ore. Splendore. When you arrive in Milan, you will say, vita bella. Provi tu. Perché già solito tran tran visiti nel duomo con i coglioni per terra. When you arrive in Milan, you don't cry, prima o poi te ne andrai. Il balos, le scappate con la Porsche in Brasile. Mentre chi bade drink si sta per me in colonna per ore. Per ore. Per ore. L'attualità dal Veneto, le voci dei protagonisti, approfondimenti e notizie in tempo reale, con Mirko Cavallin dalle 11 alle 12.30, dal lunedì a venerdì, su Blu Radio Veneto. Focus, l'attualità dal Veneto. Provi tu. No, ho paura. Proviamo insieme? Ma si può? Certo. Uno, due, tre. Prova! Concorso musicale per voci, cover band, cantautori e gruppi. Per adesioni www.123prova.it. Evento promosso da Noi Padova in collaborazione con Associazione Avis, Provincia e Comune di Padova, Il Mattino di Padova. Uno, due, tre.